Silvia, entrata per un momento nella mia vita, tu amata teneramente ma sei fuggita, t'avevo ma t'ho perduta non so perché. Silvia, dovevo dei baci miei far le tue catene, difenderti dal destino con il mio bene e fare una cosa sola di me e di te. Ed invece non sei che rimpianto di un tempo felice, di un unico amore. Ti rivedo, risento la voce, ma un sogno sei tu dentro il mio cuore. Silvia, entrata per un momento nella mia vita, t'ho amata teneramente ma sei fuggita, ed ora la mia condanna è d'amarti ancora. Ed invece non sei che rimpianto di un tempo felice, di un unico amore. Ti rivedo, risento la voce, ma un sogno sei tu dentro il mio cuore. Silvia, entrata per un momento nella mia vita, tu amata teneramente ma sei fuggita, ed ora la mia condanna è d'amarti ancora. Ritorna da me, Silvia, io t'amo ancora.